Eccoci con Natalia Di Iorio per parlare delle vie dei festival dal 22 di settembre, cioè dopodomani, fino al 16 di ottobre. Intanto benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie mille per l'invito, prima di tutto. Allora, diciamo un po' le caratteristiche di questa 23esima edizione, ma anche storicamente cosa significa le vie dei festival, Natalia? Allora, le vie dei festival sono nate nel 94, quindi con un clima culturale completamente diverso nella nostra città, diciamo così. Sono nate per portare quello che di meglio noi pensavamo ci fosse nei festival estivi, quindi diciamo per anticipare le stagioni e per segnalare quelli che secondo noi sarebbero stati gli artisti o le compagnie o le tendenze artistiche più interessanti. Devo dire che in questi anni il bilancio, lo posso dire che da testa alta, è stato largamente positivo, perché abbiamo ospitato nelle nostre edizioni artisti che poi sono diventati famosi, ma che quando li abbiamo ospitati noi non li conosceva nessuno. Intendo dire, per parlare degli italiani, mi ricordo che abbiamo ospitato Marco Paolini nel 95, Tony Servillo nel 96, Danio Manfredini, Spiro Scimone, quelli che mi vengono in mente, sì. Poi anche artisti stranieri importanti che abbiamo portato per primi, come Alain Platel, come Muntas Necrosius, insomma tanti artisti che diciamo abbiamo segnalato noi per primi in qualche modo, facendo quella che secondo me è la funzione del festival, cioè segnalare ciò che c'è di nuovo e differenziarci dalle stagioni dei teatri che hanno invece, come dire, l'obbligo tra virgolette di fare invece un lavoro più capillare sul territorio. Oh, Natalia, volevo chiederti intanto un festival disseminato in sette luoghi, come è strutturato, visto che andrà avanti fino al 16 ottobre, quali sono i giorni della settimana coinvolti e più o meno come è strutturato? Ma i giorni della settimana sono quasi tutti coinvolti, devo dire, perché noi cerchiamo comunque di fare sempre, pensiamo di fare un servizio alla città. Quindi cerchiamo anche di differenziare gli orari per permettere a tutti di, come dire, di venire a teatro. Quindi ovviamente lavoriamo di sera, perché questa è la nostra peculiarità, il teatro si fa di sera, però organizziamo anche spettacoli al pomeriggio per i ragazzi, per esempio tutta la stagione dei ragazzi è fatta al pomeriggio, o di domenica è sempre con orari pomeridiani. Poi per esempio all'Hortus Urbis alle 5 di pomeriggio, quindi cerchiamo veramente, è molto diversificata anche a seconda delle esigenze artistiche e degli spettacoli che presentiamo. Sì. Come ripeto, per esempio la lettura che farà Lorenzo Zambon all'Hortus Urbis, un posto meraviglioso che fa parte del parco regionale dell'Appia Antica, è fatto in un giardino lì dove Pia Pera, che forse insomma sarà, come dire, conosciuta dai nostri ascoltatori, autrice di questo meraviglioso libro che si chiama Il Giardino, ancora non l'ho detto, che stavo lavorando appunto con Lorenza per farne un reading, uno spettacolo, purtroppo Pia è mancata, e allora l'idea è quella di rendergli un omaggio affettuoso proprio nel giardino dove anche lei stessa aveva collaborato a creare, che è questo posto meraviglioso che sta sull'Appia Antica, che si chiama Hortus Urbis. Sì. Quindi dipende da ogni spettacolo al suo perché. Ecco, noi non siamo una semplice vetrina, ma diciamo che accompagniamo veramente gli artisti, quindi lavoriamo per un periodo con loro, cerchiamo di assecondare le loro, come dire, le loro richieste, ci abbiamo sempre molto presente le loro esigenze, questa è la prima cosa. Quindi va tutto di conseguenza, cioè non abbiamo mai una griglia prestabilita all'interno della quale si devono loro adattare, ma siamo noi ad adattarci a loro, che è molto più faticoso, ma insomma a questo punto ti chiedo maggiore soddisfazione, diciamo. Sì. Natalia, ti chiedo quanti sono gli spettacoli che portate in questa 23esima edizione in questi sette luoghi, e poi tutti i riferimenti web per il programma. Certo, allora sono 22 titoli, quindi sono tanti. Si dividono appunto fra teatro normale, reading, spettacoli per ragazzi, e la maggior parte degli spettacoli la faremo al Teatro Vascello, Monteverde sì. Vecchio, ma lavoriamo anche al Teatro del Lido di Ostia, che è un teatro col quale collaboriamo da parecchi anni, e all'Auditorium e appunto all'Hortus Urbis e al Museo Laboratorio della Mente, che sta a Santa Maria della Pietà. Benissimo. Tutti i riferimenti sono ovviamente sul nostro sito, che è www.leviedefestival.com. Segnalare uno spettacolo piuttosto che un altro diventa impossibile, certo. Perché, come dire, secondo me sono tutti belli e buoni. Certamente risulterà curioso vedere una compagnia messicana che non è mai stata a Roma, poi del teatro messicano sappiamo ben poco, che presenta uno spettacolo secondo me molto interessante che si chiama Tijuana, la democrazia nel Messico 1965-2015, che si pone degli interrogativi molto interessanti sulla vita quotidiana oggi in Messico. E ricordiamolo, 23ª edizione delle Vie dei Festival, dal 22 settembre al 16 ottobre, 6 luoghi a Roma e poi il Teatro del Lido di Ostia. I riferimenti ce li hai dati, un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie, vi aspetto a teatro. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao.